Davide pensò dentro di sé: certo, un giorno o l'altro perirò per la mano di Saul, perirò per la mano di Saul. Non v'è di meglio per me, filistei. Saul desisterà dal cercarmi ancora in tutti i confini di Israele e mi salverò. Davide si mosse e passò con i 600 uomini che erano con lui da Achis, figlio di Maoc, re di Gat. Davide dimorò presso Achis a Gat, lui e i suoi uomini, ognuno con la propria famiglia. Davide e le sue due mogli, Achinoam di Israel e Abigail, già moglie di Nabal. Quando fu riferito a Saul che Davide si era rifugiato a Gat, egli non continuò più a dargli la caccia. Davide disse ad Achis: «Ti prego, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, mi si dia un luogo in una delle città della steppa ove possa abitare. Perché il tuo servo deve abitare nella città reale insieme con te?» In quel giorno Achis gli consegnò Ziglag. Per questo Ziglag appartiene ai re di Giuda fino a oggi. Il numero dei giorni in cui Davide rimase nelle steppe dei Filistei fu di 1 anno e 4 mesi. Davide partiva con i suoi uomini a fare razzie contro i Gesuriti, i Girziti e gli Amaleciti. Essi abitavano la regione che va da Telam verso Sur, fino alla terra d'Egitto. Davide devastava la regione e non lasciava vivo né uomo né donna, mentre catturava greggi e armenti, asini e cammelli e indumenti. Al ritorno andava da Achis. Achis domandava: «Dove avete fatto razzie oggi?» Davide rispondeva: «Contro il Negeb di Giuda, contro il Negeb dei Gerameeliti, contro il Negeb dei Cheniti». Davide non lasciava vivo né uomo né donna da riportare a Gat, pensando: «Affinché non diano notizie a nostro riguardo», dicendo: «Così ha fatto Davide». Tale fu la sua condotta tutti i giorni in cui rimase nella steppa dei Filistei. Achis ebbe fiducia in Davide, pensando: «Certamente è diventato odioso al suo popolo Israele e sarà per sempre mio servo».